10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Il 30 novembre 2004, allo spazio pubblico autogestito Strike di Roma, si è tenuta la presentazione di Mercenari, il business della guerra. Il libro, che è la seconda collaborazione del senatore verde Mauro Bulgarelli e del ricercatore Umberto Zona, tenta di indagare come la parola d'ordine della flessibilità abbia cambiato il volto della guerra. Giuliano, del collettivo Altre Mappe, che ha collaborato alla stesura del libro, ha introdotto gli argomenti del dibattito. Ascoltiamolo. Nell'Impero Invisibile quindi si descriveva la costruzione di questa egemonia sulla società americana. Invece con Mercenari si passa a descrivere invece come la guerra globale permanente, che è uno dei pezzi fondamentali della sovranità, del nuovo tipo di sovranità che vanno costruendo, che teorizzano i neocon, si sviluppa a livello estensivo, cioè la guerra sussume qualsiasi forma di attività, addirittura anche la cooperazione internazionale. Questo ovviamente non vuol dire in toto bollare qualsiasi forma di cooperazione che opera come collaborazionista della guerra, però vuol dire comprendere come si può sviluppare una forma di cooperazione che sia al di fuori dei meccanismi della guerra globale permanente. Oltre alla cooperazione internazionale, che è la cosa, insomma, forse l'argomento più scabroso, questa nuova forma di sovranità appunto riesce a mettere al lavoro come nell'outsourcing, come nel post-fordismo, nelle nuove forme di produzione, riesce a mettere al lavoro dal punto di vista proprio molecolare anche dei piccoli eserciti che vengono controllati, e quindi viene esternalizzato qualsiasi forma di rischio e internalizzati tutti i vantaggi di questi gruppi, insomma, di militari privati che, insomma, senza mezzi termini vengono definiti mercenari. Ma per capire meglio i termini della questione, Mauro Bulgarelli pone l'accento sul fattore produttività innescato dalla guerra. Cioè, in realtà, quando si parla di neoguerre, in particolare dai Balcani ad oggi, sicuramente è accaduto qualcosa, cioè questo grande intreccio tra quella che è l'economia e la guerra. È vero, le guerre sono sempre state fatte soprattutto per problemi, fra virgolette, di ordine economico. Ora lo vediamo messo a sistema, e qui, parlando dei cicli produttivi, tiriamo in ballo Marx. Marx diceva che un filosofo produce idee, un poeta produce poesie, un pastore produce prediche e un criminale produce crimini. Poi ci ammoniva di non ritenere blasfemo l'accostamento dell'ultimo, cioè del criminale, agli altri tre, perché un criminale non produce solo crimini, ma bensì produce penitenziari, produce codice penale, produce magistrati, produce assistenti sociali, ossia mette in campo, come tutti gli altri, un vero e proprio ciclo produttivo. E questo probabilmente è quello che è accaduto nelle ultime guerre, in particolare in quella in Iraq, perché è un salto in avanti, uno scatto in avanti rispetto alle guerre precedenti, nel senso che una volta commesso il crimine, cioè la guerra, che è di per sé un crimine, contemporaneamente sono state messe a regime di lavoro tutta un'altra serie di soggetti. E tornando al libro Mercenari, ascoltiamolo ora Umberto Zona per capire il contesto in cui questo scenario si sviluppa. Noi abbiamo cercato, appunto, da una parte di ricostruire uno scenario che sicuramente non siamo i primi, appunto, in questo, ma insomma un contesto dentro il quale si potesse, appunto, capire come l'outsourcing bellico sia oggi una dinamica trainante non solo dal punto di vista della costruzione delle nuove guerre, ma anche dal punto di vista economico. È un giro di denaro gigantesco che si sta via via accumulando attorno, appunto, a queste scelte strategiche che, ricordiamo, insomma, partono in qualche modo dall'America, dalla rivoluzione negli affari militari voluta negli anni 90 da Rumsfeld, e che oggi ha dilagato soprattutto in occasione appunto della guerra in Iraq. Uno scenario che appunto parte dagli States, ma non risparmia l'Italia e tutto l'Occidente. Ancora Mauro Bulgarelli. È vero che vi è stato un golpe all'interno di quelle che erano le macrostrutture che regolavano l'intero pianeta, ossia il WTO, il G8, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e quant'altro. È altrettanto vero però che l'Italia è parte integrante di questi processi, è parte integrante di questi processi come alleato, o meglio come vassalla degli Stati Uniti d'America assieme ad altri paesi, ed è contemporaneamente vero che le altre potenze europee, quelle che per l'ultima guerra sono apparse fra virgolette pacifiste, poi vediamo ora l'intervento ad esempio della Francia in Costa d'Avorio, anche se sicuramente il presidente della Costa d'Avorio non ha le nostre simpatie per ovvi motivi, insomma, però l'intervento diretto di questi paesi in altre aree fanno pensare che questo sia ciò che sta accadendo in questo momento sul pianeta, ossia una sorta di guerra come punto lavoro. Tutte le persone che ora sono in Iraq sono persone che in un qualche modo stanno lavorando, sono all'interno di un ciclo produttivo. Questo è dovuto sì a un cambio del linguaggio, tant'è che si parla di fare un lavoro nel momento stesso in cui viene occupato un paese. La questione del lavoro risulta dunque centrale nei meccanismi che stanno alla base della guerra globale permanente, e che parte dal falso assunto che chi si arruola in un esercito professionistico può essere definito sempre e comunque volontario. Alla presentazione era ospite anche Massimo Paolicelli, presidente dell'Associazione Italiana Obiezione di Coscienza. Non so che cosa ci sia di volontario in una persona che di fatto davanti ha quasi come unico sbocco lavorativo in questo momento quello di andare a fare il servizio militare, perché è stato costruito nel nostro paese un meccanismo tale per cui purtroppo le prossime assunzioni a livello statale saranno soltanto in quel settore, perché mentre abbiamo appunto un blocco totale di tutte quante le altre assunzioni, questo blocco non vale soltanto per le forze armate, che di fatto tutta una serie di posti di lavoro d'ora in avanti verranno garantiti per chi svolge il servizio militare volontario, anche la ferma annuale, e si parla per esempio della pubblica sicurezza, per cui i prossimi concorsi per le nuove assunzioni nella pubblica sicurezza potranno accedere al 100% coloro che hanno fatto il servizio militare volontario, con tutto quello che ne consegue ovviamente, perché in ogni caso possiamo cambiare, usare le parole come vogliamo, possiamo chiamarle missioni di pace anziché missioni di guerra, però il tipo di addestramento, di formazione che ricevono questi giovani è quello di affrontare in ogni caso un conflitto, di agire in un certo modo, quindi poi portare queste persone a gestire l'ordine pubblico ha un certo tipo di incidenza. Mauro Bulgarelli torna sull'argomento della sicurezza, citando uno dei laboratori più famigerati in questo campo e provando a tracciare i possibili sviluppi. E se vi è un laboratorio rispetto a questo, rimane quello sulla ormai infinita, anche questa come la guerra infinita, questione Israele-Palestina, dove vediamo un esercito che svolge funzioni di polizia, ed è più o meno la stessa cosa che sta accadendo in Iraq in questo momento, con una grande confusione rispetto a quelli che sono i ruoli, o meglio stanno ridisegnando completamente quelli che sono i ruoli. Sul piano mondiale vediamo che la guerra diventa l'elemento principale della governance mondiale, è la guerra che determina la politica, è la guerra che determina la diplomazia, e quindi è ovvio che è la guerra che va a determinare quella che è la nuova economia. Più che dopo guerra avremo sempre di più davanti la cosiddetta gestione del terrore, attraverso la quale si arriverà a una ricostruzione infinita, perché se la distruzione è infinita è evidente che anche la ricostruzione diventa infinita, e permetterà di ingaggiare all'interno dei territori sottoposti a guerra sempre più persone, dandogli cosa? Di fatto un lavoro, perché questo è quello che uscirà da tutte quelle che sono queste guerre, cioè nel senso che verrà tutto giustificato attraverso il lavoro. Ma perché questo scenario risulti applicabile anche dall'Italia, c'era bisogno di un passaggio fondamentale: l'abolizione dell'esercito di leva. Ancora Massimo Paolicelli. L'esercito di leva creava problemi perché creava discussione nel paese, cioè il fatto di partire giovani. È stata fatta passare l'idea che sarebbe una maggiore professionalità, cosa che di fatto per certi aspetti anche da alcuni tecnici militari ammessa non è assolutamente vera. Io mi ricordo una frase che mi ha colpito particolarmente del generale Jean in commissione difesa quando sono state fatte le audizioni per il passaggio a questo esercito professionale, che ha detto che il motivo principale per quale si passava all'esercito professionale era il motivo di... è un motivo essenzialmente politico, nel senso che lui ha detto questa frase brutale, cioè se appunto muore un giovane volontario, basta che faccio l'esempio, sicuramente sarà appunto il figlio di un pastore calabrese, basta dare 200 milioni alla famiglia come indennizzo e lì si chiude il caso. Se muore un giovane di leva si crea una sollevazione popolare, ovviamente, quindi per quel motivo sostanzialmente è quello, cioè serve quella che era un tempo, cioè carne da cannone, cioè persone che per soldi appunto sono disposte a morire appunto per quello che non è la patria ma sono interessi economici. Anche la relazione che ha presentato il governo in Parlamento nei giorni scorsi lo dice esplicitamente, che le missioni all'estero servono come volano per una serie di interessi economici legati appunto alla ricostruzione eccetera, cioè non è che lo nascondono, cioè lo dicono anche esplicitamente. Quindi, però ovviamente è chiaro che il messaggio che passa poi è la retorica dei morti di Nassiriya, che ovviamente poi andando a vedere anche le responsabilità che ci sono di quello che è accaduto sono anche abbastanza pesanti, anche rispetto alle inchieste che ci sono in corso, anche se poi pure lì viene messo tutto quanto a tacere. Sulla vicenda di Nassiriya, la presentazione allo strike ha raccolto la drammatica testimonianza di Aureliano Madei, aiuto regista, che si trovava in Iraq per girare un film sull'operato dei soldati italiani a Nassiriya, un film che ovviamente non è mai stato realizzato. E il 12 novembre mi trovavo nella caserma maestrale quando è esplosa la bomba e ha ucciso... nessuno sa quante persone, perché sappiamo tutti dei 19 italiani, ma purtroppo del bilancio degli iracheni feriti e caduti non ci viene assolutamente detto nulla, ci viene detto che sono 7, io personalmente ne ho visti più di 7, per cui non sarà mai fatta chiarezza su questo punto. Tutti sanno che c'è stata una grossa manipolazione dell'informazione, in pochi sanno che fino a che punto possa essere stata strategica questa manipolazione. Nei primi 3-4 mesi di, fra virgolette, pace dopo la guerra, sono stati fatti firmare circa 100.000 ragazzi delle varie brigate. Le persone che partono oggi hanno tutte quante firmato nell'estate dell'anno scorso. Oggi non firmerebbero. Ve lo garantisco, ci ho parlato personalmente, ho visto gente partire e oggi non firmerebbero. E sono arrivate, gli è stato garantito che andavano a fare una missione come quella del Kosovo, come quella dell'Albania, come quella addirittura di Malta, e quando sono arrivati in Iraq gli è stato fatto firmare il codice militare penale di guerra. Tutti molto sorpresi, alcuni si sono rifiutati di farlo. Guarda caso, questi codici firmati dopo la strage di Nassiriya, quando lo scandalo è venuto fuori un pochettino, l'abbiamo letto sui giornali, sono spariti. Un soldato mi ha riferito di averli visti tagliare. Ha visto mettere i codici dentro una tagliola ed eliminarli. Inizio, dopo un anno da quello che è successo, a pensare che ci sia una strategia anche in questo senso. Si tiene 3 mesi di tranquillità apparente e poi 100.000 ragazzi italiani firmano per andare, poi sono costretti ad andare, se no finiscono sotto corte marziale, e ci abbiamo tutti i nostri volontari che partono per l'Iraq volontariamente, anche se oggi non partirebbero più volontariamente avendo visto qual è la situazione. Aureliano Madei ha raccolto anche diverse testimonianze, come quella di un carabiniere che gli ha confidato noi usciamo, ho a volte ho l'impressione che usciamo per fare la notizia. Se c'è bisogno di avere la notizia che ci hanno sparato addosso, noi usciamo a farci sparare addosso, in maniera che poi il giorno dopo si possa scrivere che ci hanno sparato addosso. Se c'è bisogno di fare la notizia che è tutto tranquillo, noi non usciamo proprio. Io ho scoperto da alcuni dei carabinieri che sono tornati che c'erano stati 10 conflitti a fuoco prima della strage di Nassiriya, di cui in Italia non si era parlato. Alcuni iracheni erano morti prima della strage di Nassiriya sotto i colpi italiani e non se ne era parlato. Ladies and gentlemen, let's break the floor at this time. A young man's gonna shake you up. Ma accanto alla presenza scontata dei militari, il libro Mercenari pone in sostanza la questione della macchina della ricostruzione, che è in tutto funzionale a quella bellica. Ascoltiamo ancora Umberto Zona. Nella seconda parte del libro cerchiamo anche così di prospettare i possibili sviluppi di questa tendenza, partendo ancora una volta dall'Iraq, che rappresenta da questo punto di vista un laboratorio importante, non solo perché in Iraq c'è stata quella prima immissione massiccia di questi nuovi operatori della guerra, ma anche perché in Iraq in qualche modo si è rotto un meccanismo che fino ad oggi aveva comunque consentito soprattutto agli Stati Uniti poter operare su vari scenari di guerra paralleli e quindi di poter portare avanti insomma le guerre nella visione della rivoluzione militare della RMA. In Iraq questo meccanismo si è interrotto, si è scontrato con una resistenza popolare che ha dimostrato una grande intelligenza politica, quindi soprattutto ha impattato con un controllo del territorio che ha dimostrato di poter essere, proprio grazie a questa ramificazione che la resistenza è stata capace di mettere in piedi, ha dimostrato di poter in qualche modo bloccare questa struttura moderna appunto delle neoguerre che si concentrano a nostro avviso soprattutto nel cosiddetto dopoguerra, cioè l'attacco militare in se stesso assume una funzione quasi di inizio del conflitto, nel senso che ovviamente l'America dispone di un apparato bellico che non è paragonabile a quello di nessun altro. I problemi nascono dopo, i problemi del business nascono dopo che l'attacco militare si è concluso e nascono quindi dentro le dinamiche del cosiddetto peace building, cioè della costruzione del dopoguerra. In questo scenario sono coinvolti, ma come questo business che si costruisce attorno alle nuove guerre permette per esempio che alcune società, alcune grandi multinazionali possano offrire indifferentemente sia mercenari, cioè sia soldati, sia operatori tra virgolette di pace. Questo è possibile da una parte perché le grandi organizzazioni internazionali a partire dall'ONU vivono una crisi particolarmente forte, quindi non sono in grado, semmai lo siano stati in precedenza, di assicurare questi interventi su larga scala, e sia perché proprio per questa nuova caratteristica delle guerre, che ripeto riguardano soprattutto il controllo del territorio dopo l'intervento armato, ovviamente questo tipo di prospettiva non ha più bisogno soltanto dei soldati ma anche di una serie di soggetti che consentano comunque un controllo del territorio efficace dal punto di vista degli occupanti. Un controllo del territorio che si può ridurre alla macro categoria che condiziona i tempi correnti, la sicurezza. Ascoltiamo Clementina di Altre Mappe. Dietro la parola sicurezza, dietro la security, si nascondono tantissimi ruoli. Siccome la sicurezza è un termine generico che può intendere il fare il bodyguard alla discoteca, ma può intendere il fatto che si fa la scorta a una persona importante in Iraq o che si fa la scorta a, non solo a personaggi governativi ma anche a dirigenti d'azienda che soprattutto sono imprenditori che vanno, soprattutto americani che sono in Iraq in questi mesi, sono stati in Iraq nei mesi immediatamente successivi a quella che si è definita la fine della guerra, per fare i loro affari, ma significa anche ingaggiare combattimenti, perché poi alla fine quello che anche il giudice di Bari ha verificato è che queste persone avevano dei contratti che erano totalmente indefiniti e che quindi hanno anche avuto modo di usare le armi contro le persone nei posti di blocco, insomma, quindi un vero e proprio ruolo di soldati pagati per fare questo. Allora anche le organizzazioni non governative in questo senso hanno avuto una involuzione verso una professionalizzazione nell'ambito dell'umanitario, ma soprattutto uno svuotamento di quelle che sono le ragioni iniziali, insomma, che hanno dato vita molto spesso alle organizzazioni governative. Quindi grosse motivazioni etiche che stavano dietro il movimento, cioè il fatto che uno si metteva in campo, andava nei paesi più dove c'erano guerre, conflitti e difficoltà, per diventare invece delle ONG spesso e volentieri impresa, che passano da un paese all'altro senza grandi difficoltà perché inseguono fondamentalmente dove ci sono i fondi. Naturalmente le difficoltà sono tante, però questi non sono problemi che si possono eludere, perché se un'organizzazione governativa veramente vuole lavorare ed essere non governativa e quindi rispettare anche semplicemente il proprio nome, deve porseli questi problemi, deve ragionare su come la cooperazione, a partire forse soprattutto dalla guerra in Kosovo, dove è stato inaugurato il termine della guerra umanitaria, l'operazione Arcobaleno, che mentre si bombarda si tirano pure le scorte alimentari, ha creato questo tipo di contraddizione, insomma. E di fronte a un tale scenario i margini di manovra per il Popolo della Pace sono davvero ristretti. Umberto Zona prova comunque a tracciare dei possibili percorsi. La guerra di oggi, avendo come filtro, come processo appunto di costruzione, il lavoro, da una parte sussume tutto, quindi sussume anche quella che prima era in qualche modo un'etica della guerra, per quanto sia una parola oscena, ma insomma in qualche modo fa scomparire completamente quel diaframma che esisteva tra l'azione guerreggiata e invece, diciamo, l'intervento di contorno alla guerra. Nel fare questo, quello che dicevamo all'inizio, ha creato queste figure nuove che sono, per quanto mi riguarda, delle figure assolutamente inquietanti e orribili, peggio secondo me del soldato che va lì a fare quello che, per cui è pagato. Cosa significa? Ci dovrà far, insomma, suonare un campanello questa trasformazione oscena che stanno avendo le guerre, dove appunto il fatto che ci siano vittime, soprattutto civili, non è più importante da un punto di vista etico, ma perché appunto si prolunga la situazione di instabilità sul territorio. È una situazione nuova ed è altrettanto terribile che dentro questa situazione nuova siano appunto coinvolti soggetti che fino a questo punto erano rimasti al di fuori degli scenari bellici veri e propri. Ma mi sembra che la guerra possa essere in qualche modo definita ormai un'industria culturale, cioè un sistema complesso dove accanto all'intervento armato c'è un processo di fondazione rovesciata della politica che non è né fuori né accanto alla guerra, ma è dentro la guerra stessa, e crea una serie di mostri. Ma il nesso mostruoso, secondo me, di questa nuova dimensione della guerra è proprio questa, cioè il fatto che i soggetti lavorino e dichiarino di lavorare sta in qualche modo legittimando una guerra che ancora una volta diventa invisibile. È vero che è una costruzione appunto mediatica, come si diceva prima, ma è anche un fatto estremamente materiale, cioè fatto di morti, fatto di dolore, fatto di sofferenza, per cui è da questo che bisogna ripartire in qualche modo, cioè in qualche modo radicalizzando quello che è il rapporto che abbiamo avuto come Movimento della Pace rispetto alla guerra, e anche eliminando probabilmente queste zone grigie che si basano anche appunto sulle differenziazioni, sui buoni sentimenti, che alla fine si rivelano appunto controproducenti, insomma molto pericolose. E si conclude qui questo speciale su Mercenari, il business della guerra. Leopoldo Calabria vi saluta e vi ricorda che il libro è uscito per i tipi di NDA Press di Milano e che ha un costo di 12 euro. Buona lettura. fall in farmer's fear. Do not fall in farmer's fear. When dog creep and operate. Dog creators operate.